Io ho detto sin dal primo momento che non avrei fatto polemiche, quello che conta è salvaguardare la torre. Se il Ministero ha intenzionato a sostenere questa proposta di candidare le due torri all'UNESCO, credo che è bene che risponda alla lettera che proprio questa mattina manderò. Io in realtà ho già sentito il ministro San Giuliano ieri, mi ha espresso come sempre vicinanza e disponibilità a collaborare. Si tratta di allargare il sito dei portici, perché il sito dei portici esiste già, è riconosciuto come patrimonio dell'umanità. Tutte le città italiane hanno ricevuto riconoscimento UNESCO, hanno potuto allargare i propri siti, includendo altri percorsi, altri itinerari, e credo che si possa fare anche per le due torri. È chiaro che l'utilità di questa proposta è soprattutto politica e di attenzione. Noi abbiamo bisogno davvero che tutto il paese si impegni insieme a noi per salvaguardare questo monumento. Occorrono risorse, ma occorrono anche buone idee. Noi stiamo mettendo in campo tutte le competenze che abbiamo, e abbiamo predisposto questo piano di salvaguardia che da qui ai prossimi mesi metterà in sicurezza l'area e la Torre Garisenda, e poi partiremo con gli interventi di recupero. Questo è un mese abbastanza importante, anche perché presenteremo alla città, lo ribadisco, un nuovo piano del trasporto pubblico, ma sarà anche il mese nel quale vogliamo coinvolgere la città in un dibattito sul centro storico e sugli spazi pubblici. Credo che avere una città come Bologna, ricca di monumenti, di tanti siti culturali, dai portici alle torri, alle chiese, ai tanti spazi come le piazze, sia davvero un patrimonio a cui tutti dobbiamo tenere e ci dobbiamo impegnare. Quindi accolgo anche con grande favore gli interventi di architetti, intellettuali, persone che in questi giorni sono intervenute dicendo la propria e mettendosi a disposizione. Sicuramente li contatteremo tutti, li coinvolgeremo. Discutere per il bene della città è importante, perché Bologna merita di avere l'attenzione internazionale che hanno tante altre città nel mondo. UNESCO serve a questo, e quindi io credo che non sia il tempo di polemizzare, ma di rimboccarsi le maniche e di fare quello che dobbiamo. È toccato a noi, e quindi facciamolo insieme. Bisogna presentare una progettualità. Credo che noi siamo in grado, insieme al Ministero, di presentare una progettualità importante per dimostrare che è un patrimonio universale dell'umanità il centro storico di Bologna, con i suoi portici e le sue torri. Insomma, è possibile discutere con la Commissione in questo senso. Significa non chiedere un nuovo riconoscimento, ma significa allargare il sito dei portici. Se si vuole dal punto di vista politico sostenere questa proposta, sia fondamentale iniziare a lavorare insieme. L'UNESCO serve per salvare ciò che si rischia di perdere, in questo caso noi rischiamo di perdere una torre, per cui io penso che se non si chiede all'UNESCO di tutelare la Garisenda insieme a noi, credo che non so cos'altro si debba chiedere. Insomma, non sappiamo ancora quanto costerà la salvaguardia, ci arriverà tutto adesso a breve, però ci dobbiamo tutti attivare per trovare risorse. Noi come comune abbiamo detto che faremo fronte alle spese che saranno necessarie, richiederemo sicuramente anche il sostegno attraverso l'Arbonus, anche questo è un aspetto che il Ministero può mettere a disposizione, e poi tante aziende private che potranno contribuire, come abbiamo fatto per il Nettuno, che abbiamo restaurato con circa 800.000 euro di donazioni, oltre alle risorse del comune.